Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Oggi è finita nel nome del buonsenso e della ragionevolezza, specie rispetto a come la partita. Il punto chiave è che l'Italia torni ad essere sempre più presente nel panorama europeo, ma non perché ne abbiamo bisogno noi, lasciatemelo dire, perché ne ha bisogno l'idea di Europa. La Germania voleva cambiare governo? No, io credo che questa sia fantapolitica. La Germania ha un atteggiamento, un approccio che è diverso da quello che abbiamo noi. L'idea che Angela Merkel o Wolfgang Schäuble o chi volete voi, Sigmar Gabriel, abbiano nella notte tramato per chissà che cosa appartiene alla solita fantapolitica. Renzi è così, nella sua abilità, no? Riesce a trasformare cose positive per l'Italia, quello che poi su tutti i giornali viene visto come un po' la disfatta dell'Europa, nel senso che è un'Europa che ha usato gli unici strumenti che aveva nei confronti di Siriza, di Tsipras e della Grecia. Un bel ricattone. Se vuoi 80 miliardi va bene, però intanto signore e signori si svenda la Grecia, porti, aeroporti, avanti, venghino. Volete comprarvi il porto del Pireo soffiandolo ai cinesi? Avanti, ci sono gli aeroporti delle isole che si vendono anche, eh? Pare che... Per un aeroporto sia molto interessata a Francoforte. Comincio a prenderti un aeroporto. Così. Track. Un ricattone. Beh, alla fine Tsipras è rimasto come il giocatore di poker che ha giocato tutto e ha perso. Dai, su. A metà del negoziato ha fatto questo referendum per sentirsi più forte e si è indebolito parecchio, tanto che ore 4 di notte del lungo negoziato pare che Tsipras abbia detto: questa non è un'unione, è un'associazione ricattatoria, con Juncker che l'ha ripreso, la Merkel che diceva con gli occhietti nein. E vabbè, Renzi che litigava, qualcuno dice, con il premier olandese, anche lui uno molto intransigente, stile merkeliano, e basta. Alla fine vi diamo 86 miliardi, ma voi fate questo, l'IVA, le pensioni, entro mercoledì, Tsipras ha tempo 2 giorni, infatti è volato via in fretta perché dice: devo approvare tutte queste cose, la riforma del codice civile, e in più mettono 50 miliardi di beni greci in fondi indipendenti, aeroporti, porti, che il primo che arriva a garanzia ipoteca potrebbe comprarseli, anche la Germania. È finita così? No, ma non è finita, tranquilli, tanto andrà così che le riforme i greci non riusciranno a farle, addirittura si vocifera di Siriza che si spacca, Tsipras che cadrà, c'è Varoufakis subito che gli fa la fronda interna. E le riforme non ne usciamo più, la Grecia è un cattivo attaccante ai baroni, ecco, non ne usciamo più. Sì, mi sa che ha ragione Forchielli. La Grecia è un gattino aggrappato ai maroni. Non riusciremo a fare le riforme, non riusciranno a fare le riforme, e tra sei mesi che succederà, cari ascoltatori? Assisteremo ai vertici europei col dibattito. Che facciamo della Grecia? Vedrete, vedrete se non andrà così. Segnatevela. A dicembre, sotto Natale. Che facciamo della Grecia? Un nuovo prestito o la Grexit? Sei mesi, sei mesi. Allora, 6:34 minuti, qui meno di 6 mesi, mancano 5, 3, 8 albe al mattino, 8 albe alle 5, 8 sveglie all'alba, e noi andiamo in vacanza con Lorenzo Nespoli in redazione. No. Come? No, sì. Ma come no? Sì. Neanche la Merkel ce lo impedirà. C'è Carmelo Lauricella in regia, questo è 24 mattino, e voglio aprire subito il Parlamento perché mancano 8 giorni, appunto. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Poi ci fermeremo fino al 31 agosto, credo. Il 31 agosto riprendiamo. Mamma mia, quanto è presto, solo 5 settimane di sosta. Vabbè, dai, saluto subito Silvia Brasca, buongiorno. Buongiorno. Torneremo col campionato di Serie A già iniziato. Anzi, ma inizia, quando inizia? Il 30 proprio, il lunedì 31? Sì. Ah, sì. Saremo perché proprio... poi quest'anno ci sono gli europei, quindi bisogna finire un po' prima. Mi sa che inizieremo già a commentare la prima sconfitta del Milan e dell'Inter. Vabbè, così. Ma ti sei abbonata anche quest'anno? Sì, all'Inter ovviamente. Sì, certo. Sei abbonato. Come si fa a star lontano? Con un entusiasmo, no? Sì, devo anche dire che ci ho pensato. Sì, quest'anno anche quest'anno. Ci ho pensato perché sono 2 anni che lo spettacolo è pessimo, però dai. Solo due? Si fa. Solo ma due sì, anni dai, che gli ultimi due, perché gli altri due c'era speranza, quest'anno gli ultimi due, ma vabbè. Però dai. Allora, dai, è Allegriana, schema Allegri, dai, Silvia ecco. Brasca, vabbè. Attaccare del TG della 7, attaccare! Eccola là. Mentre voglio salutare Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, ciao Massimo, come va? Buongiorno. Quando vai in vacanza? Se vai in vacanza? Ma io faccio pezzetti di vacanza. Pezzetti. Ho già una settimana, devo dire. Confesso che l'ho già fatto una settimana. Ah, ecco, in Grecia ovviamente, in qualche isola. No, sono stato in Italia. Ti potevi portare via mezza isola. Tanto adesso andavi e scusate, sotto braccio mi portavo via mezza isola. Ma non stanno vendendo tutto, mi portavo via una colonna, qualcosa. Si potrebbe fare. È terribile sta cosa, Abbastanza. No, poi soprattutto Libero, adesso mi devi far capire perché c'è Padoan, non si capisce come finanzieremo la Grecia, e voi già subito titolate, giusto per metterci di buon umore, cos'è che paghiamo? Quant'è che paghiamo ognuno? 14 miliardi. Sì, certo, 14 miliardi d'Italia, e quindi fa a testa ogni italiano, che ne so, 400 euro. Ma perché subito ci dovete mettere questo pessimismo addosso? Ma non è pessimismo, è realismo. Oh, scusami, hai appena detto che tra sei mesi saremo qua di nuovo a parlare della Grexit. È sicuro, è sicuro. Questo è sicuro. Ne sono convinto anch'io, ma allora non darmi il pessimismo. È realismo. Abbiamo avuto la prova definitiva, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non esiste un'Unione Europea, c'è una gabbia di matti dentro la quale ci sono gli stati, ognuno dei quali fa i suoi interessi, e di volta in volta prevale qualcuno, i furbi, i falchi, le colombe. Cioè ogni volta si applicano delle regole, ogni volta no. Esattamente. Stavolta è prevalsa la regola della durezza, mi sembra di capire. Tsipras. Sì, ma dietro le quinte, nel frattempo hanno appena ristrutturato un po' il debito austriaco. È vero. Ieri il Sole 24 Ore diceva che la Baviera ha condonato una parte del debito austriaco. Così tra di loro se la sono cavata così. Esattamente. E quindi sì, cioè, hanno usato il pugno di ferro, come era prevedibile, volevano anche che fosse lo scopo anche finale, era far saltare anche questo governo, che sicuramente non piace, e non è detto che non ci riescano, perché adesso vediamo come va la storia in Grecia, ma al di là della Grecia in sé, che poi porta talmente tante colpe che viene anche difficile difenderla per certi versi, mm-hmm. è proprio l'architettura dell'unione che si è rivelata per quello che è, ripeto, una gabbia dentro la quale ci sono dei lottatori che E vince il più forte, vince il più forte. Vince il più forte. In genere il più forte è la Merkel. La sì, è vero. È una gabbia di matti, non lo so. Silvia, tu la vedi così, una gabbia di matti. Certo che da dire che parlavamo del referendum. Qua c'è stato un grande errore. Insomma, Tsipras delle responsabilità anche solo nelle ultime due settimane le ha avute grosse. Ha avuto, secondo me... io ieri ho letto quell'intervista di Varoufakis a New Statesman. Che è la rivista della sinistra inglese, quindi non l'ha scelta a caso. Però secondo me c'è una frase che non tutti riportano, che è significativa. Cioè, secondo lui Tsipras non sapeva cosa fare con la Grexit, cioè aveva paura di quello, sapeva di non avere, diciamo, i tecnici, il know-how per, per uscire dall'euro. E questo gli fa onore, penso che sia così, e penso che alla fine lui sapesse che era peggio l'altra soluzione. Ho capito, e quindi ha accettato delle condizioni di capestro. Sì, alla fine. E comunque questo, noi parliamo, l'Unione Europea è la prima vera grande crisi, cioè sono stati fatti degli errori, l'ha detto Padoan ieri mattina, Padoan quando è entrato ha parlato, mi sembra, di 5 mesi di appunto inconcludenti e cose. Ed è vero, io spero che qualcosa, non voglio essere mai pessimista, che qualcosa si impari. La faccia della Merkel ieri quando è uscita e quelle conferenze stampa ieri mattina è stata una macchina da incorniciare nella storia, anche insomma dello news televisivo, finalmente davvero davano dai volti, si capiva quello che era successo. La faccia della Merkel non era una faccia di chi aveva vinto, non ci sono qua vincitori e vinti. Allora, la faccia di una stravolta a 17 ore di negoziato, vuole andare a dormire, voleva andare a dormire, un Milano Singapore no, anche perché tra nel posto di mezzo tra sei mesi sarà lì ancora a parlare, che facciamo, appunto, di questa faccia Grexit? Di una persona che aveva anche una aspetta che c'è una zanzara in studio, non sto scherzando, ecco. C'è una zanzara e Cruciani devo chiamare la protezione civile. Aspetta, c'è una zanzara. C'è una zanzara in studio che mi sta Radio 24 siete abituati, sì, no? Lo so, però di sera adesso ma che rompa le palle anche al mattino, insomma, niente, Cruciani non è uscito dallo studio, c'è una zanzara che circola qua, vabbè, no, comunque sì, ho capito, sentite il buon Furfaro è uno di Stelle che non è stato eletto alle ultime elezioni e ce l'ha col nostro Giannino, questa sentila, De Manzoni, senti. Questo meccanismo fallisce perché o tu arrivi e gli chiedi il sangue alle persone, oppure dici vabbè, è finito questo tipo d'Europa, ne va messo in campo un'altra, perché non si può pensare che le persone debbano morire di fame come vorrebbe Giannino in Grecia. Le persone dovrebbero morire di fame come vorrebbe Giannino. Io lo conosco abbastanza, Oscar, non credo che voglia che le persone muoiano di fame in Grecia. Adesso non mi sembra tutto. Ma no, questo è l'argomento principe che è stato usato in questi giorni. C'è una crisi umanitaria, c'è la gente che muore di fame, che non può comprarsi le medicine, e quindi bisogna che in base a Ma quindi bisogna buttare dei soldi in un secchio vuoto e continuare. Sbagliato anche questo sistema, questo è evidente che è sbagliato anche questo sistema. A parte che poi io non ho capito bene, io non ci sono stato in Grecia in questi giorni, però a sentire gli inviati dei giornali, delle televisioni che sono lì, poi tutta questa cosa non sembra neanche vera. A me hanno addirittura in un corso di una trasmissione rimbrottato, perché ha detto insomma non deve essere facile vivere in una situazione come questa, con le banche chiuse, il denaro razionato, eccetera eccetera. E mi hanno detto che faceva del terrorismo, ma no, ma qua stiamo benissimo, qui la situazione è tutta sotto controllo, la gente è tranquilla. E perché come ci, ha detto, non... come ci ha detto il nostro Vittorio Darold, la gente ha preso i soldi, ha prelevato i soldi, si stima che ci siano 10 miliardi di liquidità nelle banche, ma 50 miliardi sotto i materassi, sotto i materassi, come ai tempi della guerra, quando si metteva sotto i materassi, è lì che sono... E poi, come dicevamo prima, poi una parte di furbizia da parte dei greci, dei governanti greci, della situazione c'è stata alla grande, perché è innegabile questo, perché poi sì, a me la Merkel non sta simpatica, anche se fa il suo mestiere di cancelliera benissimo, poi gli abbiamo investita di questo ruolo di guida dell'Europa e quella non lo fa bene, questo è evidente, fa gli interessi della Germania. Sicuramente. Dopodiché dire che avesse solo torto in questa vicenda, dove abbiamo già dato 110 miliardi alla nel 2010, 130 nel 2012, cioè ogni due anni. Siamo qui. E tra sei mesi saremo ancora qui. Ieri c'era Monti da Paragone dalla Barra in onda estate, e Monti si è un po' accapigliato, e Paragone prenderebbe l'Europa, la smonterebbe pezzo per pezzo. Monti europeista convinto, eccola qua la zanzara, manda Monti. Voi parlate tanto di debiti da onorare, anche miei, e poi questo è il paese che non pagava gli imprenditori e chi ha cominciato a ridurli? Professor Monti, la prego, almeno su questo i dati dicono. Io sono venuto qui per cercare di capire insieme la Grecia, non per difendere l'attività del mio governo. Le dinamiche sono le stesse. No, le dinamiche sono le stesse, ma se lei dice delle cose così palesemente infondate, come il fatto che è come se noi avessimo avuto la Troica, perché, e mi onora molto, la Troica sono io secondo lei, perché sono andato a diversi convegni dove continuo ad andare e dove ho visto esponenti politici italiani di tutti i partiti. Lei forse non è ancora stato invitato o ha declinato l'invito. Il Bilderberg, secondo me si parlava del Bilderberg, perché Paragone ce l'ha con cosa capita a queste riunioni del Bilderberg, dove andava, tra l'altro, dove va Lilli Gruber, che Paragone sostituisce lì alla 7, no? Cosa succederà? Secondo te, Silvia Brasca, cosa succede al Bilderberg? Dai, facciamo un po'. Mangiano. Ma no, che mangiano? Ma no, cos'è che succede al Bilderberg? Ma mangiano, fanno un bel weekend, si scambiano. Ma per mangiare si trovano da un'altra parte. Pensiamo che il mondo sia governato da quelli del Bilderberg. Stai scherzando? C'è chi ci crede. No, ma c'è chi ci crede, ma voglio dire, ma anche un po' a Libero ci credono, De Manzoni. Cosa succede? Abbiamo mai insistito molto su. Certo, fai una rete di relazioni, come tutte le reti di relazioni, tutte queste forme di massoneria riservata che non governano il mondo probabilmente, però al momento opportuno la rete, essere stati lì, aver parlato di certe cose piuttosto che di certe altre, ha il suo peso, secondo me. Vabbè, mi chiedono, avete mai invitato in trasmissione un greco del popolo? Adesso, cioè, che categoria è? Un greco del popolo? Cioè, poi, un greco, lo prendo a caso, cosa rappresenta? Magari trovo un greco che dice che Tsipras è un pirla, magari trovo un greco che dice che Tsipras è il suo idolo. Cioè, cosa vuol dire? Ma la gente, avete mai invitato in trasmissione un greco del popolo? Allora, intanto, caro ascoltatore che mandi questo messaggio, dico che anche oggi avremo ospite alle 8:15 Argyrios Panagopoulos, è greco, è del popolo, è uno greco ed è rappresentante di Siriza in Italia, quindi lui è per Tsipras, sarà nostro ospite alle 8:15 come spesso accade in questi giorni. Comunque andiamo a sentire il traffico, poi rientriamo e vi farò sentire il ministro Boschi, da un po' che non lo sentiamo, e Berlusconi è tornato, è andato all'Expo. Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare, c'era il traffico. 24 mattino. Ma voi vi ricordate quando la Merkel disse che il professor Monti, presidente del consiglio tecnico, disse: mi piacerebbe averlo come genero? E voi sapete che Renzi potrebbe diventare anche lui un ipotetico parente della Merkel, perché quella là ama i presidenti del Consiglio italiano. Amici, gli italiani sono belli in busto. Quando prima erano tutti uniti, l'unità era chiusa, non c'era. Ora che sono tutti divisi fra di loro, sono fuori il giornale l'unità. Ma dov'è l'unità? Ma questi danno di matto. Io, Alessandro Milan, io sei bravo però, sei proprio bravo. 5 minuti va bene, poi rompi i coglioni però, Questa rievoca il film di Albanese, cioè il film, una delle gag di Antonio Albanese, te la ricordi, Silvia Brasca? Quella, 5 minuti, bravo, questo musicista è bravo. 5 minuti, poi rotti i coglioni. Vabbè. Era un po' una minaccia. Allora, Silvio Berlusconi è tornato, è andato ad Expo con Vittorio Sgarbi. Mamma mia, che gran momento, che grande accoppiata. Berlusconi e Sgarbi, De Manzoni, Berlusconi e Sgarbi, grande accoppiata. Pensa a metterli insieme a cena, cosa può succedere? Niente. Ha svelato anche che abbiamo sfiorato la crisi internazionale con la Turchia per l'Expo, che aveva litigato. E gliel'avrà detto Putin. Sai che è dato da Putin e lui prende qualche informazione. Comunque, Berlusconi, l'Expo è tutto merito mio. Eccola lì. Questa Expo l'ho fortissimamente voluta io, l'ho conquistata togliendola alla Turchia e sono entrato anche in rapporti difficili con il mio amico che era il capo del governo turco e siamo riusciti, dopo diversi esami superati brillantemente e con una opportuna preparazione da parte mia, con la commissione che doveva assegnare l'Expo. Capito, Massimo? Cosa ridacchi? È il leader dell'opposizione. Ha enfatizzato un dato reale: l'Expo l'Italia se l'è aggiudicato durante il governo Berlusconi. Fu la Moratti, come ricorderà, la capofila, ma certamente qualche il governo l'ha appoggiata. E Berlusconi lo rivendica a suo modo in questo momento. Lo rivendica così. Non mi ha stupito, ecco. C'aveva la voce un po' stanca, ma può davvero fare ancora leader dell'opposizione? Ragazzi, ma c'ha 80 anni. No, secondo me no. Vabbè, abbiamo deciso un sondaggio: il 100% dei cittadini italiani del nostro sondaggio, rappresentati da Silvia Brasca, del popolo. Sono due del popolo, Silvia Brasca e Massimo De Manzoni, ha stabilito che no. Quindi il 100% degli italiani ha detto di no. Perché De Manzoni non può fare più? Perché ci sono parabole che si concludono, è stata una parabola straordinaria, però. L'età, le situazioni, le cose cambiano anche, non moltissimo. Le inchieste, i processi, impresentabili. Vabbè, ma le inchieste e i processi ci sono state negli ultimi 20 anni, ben più di adesso. Quindi se non l'hanno fermato prima, figurati. Ci saranno le sentenze, basta, dai, è impresentabile, non può andare, se ve lo immaginate domani, ma se fosse stato lui lì a Bruxelles uscire dal vertice, non lo so. Ma andava col bunga bunga con a Bruxelles, avrebbe fatto le gag anche a Bruxelles, sarebbe stato Avrebbe preso a braccetto Tsipras. Perché Renzi non le fa le gag, no? Sì. Renzi ha cercato di rivendersi un ruolo in questi giorni senza trovarlo, di volta in volta dicendo. Perché con Renzi gli italiani, i medi italiani sono molto, molto più buoni, molto più teneri naturalmente. Ma se andate a analizzare il comportamento e le cose effettive fatte da Renzi in questo vertice qui, tutta la vita Berlusconi che almeno qualcosa l'aveva portato a casa però, da zero, però io adesso dopodiché le parabole finiscono, ripeto. Sì, ma è finita. Devo farvi sentire la Boschi che un paio di giorni fa ha confessato anche un suo sogno, che è quello, poi io sapete la faccio sentire, da un po' che non la faccio sentire perché le ci cantano, le sibilano, insomma è un bel sentire. Cosa c'è, Silvia Brasca? Sono innamorato della voce di Maria Elena Boschi. Cosa devo farci? Forza. Fai bene, brava, questo non lo so, a me non mi interessa, è la voce che mi interessa. Ecco, invece prima è brava e poi è anche una bella donna. Senti. Ma prima è brava. È brava e poi ha un sogno. E io spero un giorno di avere anche un figlio, magari un figlio maschio a cui proprio insegnare come deve rispettare le sue compagne e poi le donne che incontrerà nella sua vita, così come hanno fatto con me, i miei fratelli, i miei genitori, sapendo che probabilmente la prima parità vera di diritti si impara a casa, quando la mamma fa sparecchiare la tavola sia al figlio maschio che alla figlia femmina, perché probabilmente è vero, io ogni tanto dico anche a Mattia mi aiuti a sparecchiare, no! Vabbè Angelica, allora tu no, ecco, questo è il mio, io ci provo a... bravo Alessandro, ci provo e infatti parimenti ricevo due no dal maschio e dalla femmina, e dopo devi sparecchiare tu, così dai l'esempio. Esatto, va bene, allora Mattia ti faccio vedere chi lava i piatti e chi porta i pantaloni sotto il grembiule, ovviamente in casa. Vabbè. Silvia, va bene così, insomma, ha detto vuole un figlio maschio così per insegnare il rispetto della donna. Ha ragione. Cara, sulla Boschi ne parleremo. Una minaccia per un figlio, però esatto, soprattutto ha detto rispetti le compagne, ma in che senso? Di scuola, mica che abbia più compagne, no, nel senso, non che abbiamo un harem, il figlio della Boschi, no, non in quel senso. Va bene, dai, vi devo salutare. Silvia Brasca e Massimo De Manzoni, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17, cari ascoltatori. Allora parleremo anche oggi di Grecia. Amici miei debosciati che in tutta Italia ci state ascoltando. Eccoci qua. Allora, parleremo di Grecia. Sì, avremo l'economista Michele Boldrin, avremo il ritorno di Argyrios Panagopoulos, giornalista e responsabile di Syriza, il partito di Tsipras in Italia. Avremo anche Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, uno dei delusi dopo essere stato in Piazza Sintagma a festeggiare il referendum. Ora dice Tsipras ha tradito la democrazia. Chiacchiereremo con lui alle 8:40 per capire la posizione del Movimento 5 Stelle su questa vicenda. Ora andiamo a leggere i giornali. È martedì 14 luglio, i titoli sono tutti declinati sulla questione greca. Grecia, 86 miliardi e misure shock, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, Atene si arrende, riforme dure in cambio di aiuti. Per Repubblica, l'intesa dell'Unione Europea spacca la Grecia. La Stampa, il salvataggio spacca la Grecia. Come vedete anche titoli molto simili. Avvenire è molto pesante quando titola Grecia commissariata, prestiti per 86 miliardi a condizioni durissime. Il Messaggero, intesa nell'Unione, scontro in Grecia. Per il Giornale si cominciano a fare i conti. Il conto lo paghiamo noi. Tassa per la Grecia, altri 400 euro a testa. Per l'Italia, dice il Giornale, una mazzata da 15 miliardi. Per Libero, invece, Atene ci soffia altri 14 miliardi. Quindi questo è il costo per l'Italia da suddividere. L'Unità, l'Europa evita il naufragio. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano... Grecia svendesi. Questi i titoli, il manifesto invece alla foto di Tsipras in prima pagina e il titolo è Ecce Homo, è il timoniere nella burrasca secondo il manifesto Tsipras, anche se politicamente ora dovrà affrontare 48 ore durissime. Chissà se il piano di riforme che ha promesso di fare l'Eurogruppo in cambio di questi 86 miliardi verrà approvato dal Parlamento greco, e questa è una partita che si vedrà nelle prossime 48 ore. Voglio partire però da che cosa? L'intervista, la chiacchierata tradizionale che il Papa fa con i giornalisti in aereo quando ritorna da un viaggio. È riproposta da vari giornali. Leggo la versione di Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera, pagina 22. La Chiesa è con il popolo, non anarchica. Devo parlare di più alla classe media. Questo ha detto il Papa, che ha iniziato la conversazione con i giornalisti che gli chiedevano quale fosse il segreto della sua mancanza di stanchezza, visto che ha fatto in pochi giorni 7 voli, 22 discorsi, sbalzi d'altitudine da 0 a 4.000 metri. E il Papa risponde: ah, qual è la sua droga, vorrebbe chiedere? Beh, il mate mi aiuta, ma non ho assaggiato la coca. Questo è chiaro, eh? Sapete che c'era stata questa polemica sulle foglie di coca che avrebbero offerto, soprattutto in Bolivia, al Papa per essere masticate. Ma il Papa risponde così, ride, risponde alle polemiche anche su questa vicenda della droga. Poi che cosa dice l'interessante? Beh, dice: intanto io dovrei parlare di più alla classe media. Nel mondo la polarizzazione tra ricchi e poveri è grande, la classe media diventa più piccola, e forse questo mi ha portato a non tenerne conto. Io parlo dei poveri perché è il cuore del Vangelo, non è che sia sociologia. Sulla classe media ho detto alcune parole, ma un po' en passant. E quindi risponde al giornalista che pone questa problematica: mi dice una cosa che devo fare, grazie per l'aiuto, parlare di più alla classe media. Poi parla anche del famoso, ha fatto il giro del mondo la foto del presidente della Bolivia che gli ha offerto un crocifisso a forma di falce e martello. È stata una sorpresa, dice Papa Bergoglio. Secondo me si può qualificare nel genere dell'arte di protesta. Ricorda Buenos Aires la mostra di un bravo artista argentino. C'era un Cristo su un bombardiere e era una critica al cristianesimo. Quest'arte può essere offensiva in alcuni casi, nel caso concreto no, per me non è stata un'offesa. Morales ha voluto darmi due onorificenze. Ho pensato: le lascio alla Madonna di Copacabana e invece il Cristo lo porto con me. E poi conclude sui selfie. Anche al Papa chiedono dei selfie. È un'altra cultura, ma li faccio, li rispetto, anche se mi sento un bisnonno quando mi chiedono un selfie. Così parlò Papa Francesco. L'intervista la potete leggere un po' su tutti i giornali. È la polemica di Libero, falce e martello in Vaticano. Ce li porta Papa Francesco. Il Libero sta facendo questa polemica sul crocifisso di Morales da qualche giorno. Vabbè. Invece vi segnalo che Repubblica, attraverso le parole e la visita dell'onorevole Khalid Shawki, è entrata in qualche modo virtualmente in carcere dove sono detenuti i coniugi Sergio di Inzago. Chi sono? Sono i genitori arrestati insieme alla sorella, per la verità, di Maria Giulia Sergio, nota come Lady Jihad, colei che si è convertita, è andata e si trova in Siria a combattere al fianco dello Stato Islamico. Paolo Berizzi su Repubblica racconta, pagina 19, attraverso le parole dell'onorevole Khalid Shawki, che è andato a trovare in carcere queste persone detenute, come stanno. In cella dai genitori di Lady Jihad. Credere in Allah non è terrorismo, racconta Shawki. Quella che sta peggio certamente è la madre. Volevo andare a verificare, perché sono rimasto sconvolto dalle intercettazioni, come stanno. E solo guardando negli occhi questa pericolosa realtà potremo adottare una strategia valida per prevenire il radicalismo. Vabbè, poche parole, papà Sergio che dice: prego Allah perché questa storia finisca. La sorella di Maria Giulia Sergio che vorrebbe un velo diverso da quello che ha, un velo più adeguato, l'ho chiesto ma non posso averlo. Mamma Assunta invece vestita all'occidentale, molto provata, dice: è difficile stare qui isolati da tutto da un momento all'altro. Vabbè, sta di fatto che il racconto su Repubblica, pagina 19, di come se la passano in carcere i familiari di Maria Giulia Sergio. Tra l'altro, a proposito di o radicalismo o fanatismo, ieri a Roma si sono vissuti dei momenti di panico, perché come racconta il Messaggero, lo racconta anche il giornale, a un certo punto c'è stato un incubo presso i fori imperiali quando un brasiliano senza fissa dimora con un coltello da cucina improvvisamente si è avvicinato alla ragazza italiana di 27 anni che col fidanzato era seduta tranquillamente sul muretto e le ha puntato un coltello alla gola facendola inginocchiare e urlando mi manda Allah, Allah è grande, così almeno raccontano i testimoni, mi manda Allah turista aggredita ai fori imperiali, il Messaggero a pagina 13. La persona poi è stata immobilizzata, sono arrivate le pattuglie in borghese in motocicletta del gruppo di sicurezza sociale urbana della polizia municipale. La ragazza ovviamente sotto shock è stata accompagnata all'ospedale, non è ferita, l'aggressore è accusato di tentato omicidio oltre che resistenza a pubblico ufficiale, ma certo questo ha fatto spargere minuti di terrore nel centro di Roma. Tra l'altro il Messaggero lega questa vicenda a una storia che a me pare incredibile, ma Stefania Piras la racconta a pagina 13 ed è così. La cito come è titolata sul Messaggero: la tomba di Dante nel mirino dell'Isis. Ebbene sì, siccome Dante nella Divina Commedia mise Maometto nell'inferno, ecco allora che a Ravenna, dove c'è la sua tomba, Ravenna entra nella lista dei monumenti possibili obiettivi di attentati inviati dal capo di polizia alle questure. Il poeta sarebbe considerato dal califfato come un nemico proprio per il trattamento riservato a Maometto nella Divina Commedia. E dunque anche la tomba di Dante, secondo la polizia italiana, entra nel mirino degli obiettivi dell'Isis. E a lei succede anche questo. Abbiamo sentito in giornale radio vicissitudini fiscali per un'altra VIP, la giornalista Ilaria D'Amico di Sky, che è sulle prime pagine dei giornali in questi giorni anche per una presunta gravidanza, sapete, sta con Gianluigi Buffon, insomma una delle coppie dell'estate, non ha dichiarato 400.000 euro e finisce indagata dalla procura di Milano, Ilaria D'Amico, che attraverso l'avvocato replica sono stata truffata dal mio commercialista. Non c'è giornale che non dedichi una pagina alla bella Ilaria D'Amico e a questa vicenda. Ho già querelato l'ex commercialista, anche il giorno, gli 007 del fisco a caccia di VIP, Ilaria D'Amico accusata di evasione, non ha dichiarato 400.000 euro ma lei dice sono stata truffata, Libero anche dedica una pagina a questo, staremo a vedere. A proposito di Libero, eccolo qua, oggi più che mai si deve dire mani strette sul volante, mani sul volante, cari ascoltatori, mentre vi sto per leggere la notizia che ci fa pensare di questa giornata, di questo martedì 14 luglio, perché proprio su Libero si racconta di macchine, di bolli auto, di evasione fiscale, di evasione record in Sicilia, sentite questa cifra, ve la spiattello così. 1.274.150.220 euro è l'evasione in 10 anni dal 2000 al 2011 del bollo auto in Sicilia. Oltre 1 miliardo. 150 euro esatti in media per ogni siciliano, neonati inclusi. Tu chiamale se vuoi evasioni, racconta Fausto Carioti, innocenti evasioni, dato che le possibilità di essere acciuffati dagli incaricati di riscossione Sicilia sono bassissime. 1 miliardo e rotti, cifra iperbolica. Dal 2000 al 2012, in 12 anni, in Sicilia l'evasione fiscale del bollo auto ha raggiunto questi livelli. E tra l'altro, racconta Libero, questa storia del bollo auto in Sicilia non pagato è una buona metafora della incapacità delle istituzioni nell'isola, perché in teoria evadere il bollo è impossibile. Accanto alla targa di ogni veicolo appaiono il codice fiscale di chi lo possiede e il suo indirizzo di residenza. Ma ci vuole la volontà di andarlo a cercare l'evasore. E poi in Sicilia tutto sembra fatto apposta per aiutare chi non paga, inclusi i tempi del contenzioso. Gli accertamenti per i bolli auto evasi nel 2009 sono stati notificati nel 2012, 3 anni anni dopo e iscritti a ruolo nel 2015, dunque 6 anni dopo. E il bollo auto dei siciliani, chi lo paga? La Sicilia, che non riesce a riscuoterlo. Si trova dei buchi e lo chiede a Roma, e Roma gli dà i soldi. E chi è Roma in questo caso? Chi è Roma? Noi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il provolone dell'informazione. Ma no, ma che provolone, ma perché dite queste cose mentre, scusate, devo districarmi qua tra fili che si, ecco, ci sono nodi, prima c'era una zanzara nello studio, ma insomma qui siamo anche purtroppo abituati ad averla, no, purtroppo, saluto il mio amico Giuseppe Cruciani. Allora, eccoci qua, la Grecia, dobbiamo districarci tra i vari numeri, non solo tra i fili che si ingarbugliano, ma tra i vari numeri e tra i vari articoli dedicati alla Grecia. Allora, è finita, intanto non è finita, pensate che sia finita invece così, il mio pronostico è che tra 6 mesi saremo ancora a fare i vertici europei sulla Grecia, perché Tsipras prende 86 miliardi di prestiti nuovi in cambio di tutte quelle riforme promesse che erano messe ieri nero su bianco, che sembrano un elenco capestro di riforme da fare nel giro di 48 ore. Ora, secondo voi riuscirà a fare tutto questo? Molti prevedono di no, il Parlamento greco forse non le approverà, o se le approverà comunque non riuscirà a fare tutto quello che è stato promesso in così poco tempo, e quindi c'è il rischio che tra 6 mesi saremo ancora qui a discutere che facciamo con la Grecia. Allora, intanto il piano greco è questo: viene messo in un fondo per la dismissione da 50 miliardi con supervisione dell'Unione Europea gli asset da privatizzare, porti, aeroporti, tutte le questioni che possono essere vendute. In tempi rapidissimi il governo greco deve fare riforme di IVA, pensioni, giustizia e liberalizzazione del lavoro. Poi, quando le altre misure saranno realizzate, sarà possibile un allungamento delle scadenze del debito, e servono subito 12 miliardi per le scadenze di luglio-agosto, ma le trattative sono complesse. Questo in sintesi, che poi lo trovate ben spiegato a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, tutto quello che si è impegnato a fare Tsipras: riforma dell'IVA, delle pensioni, sui conti pubblici, la riforma del codice di procedura civile, le nuove leggi sulle crisi bancarie, liberalizzazioni, un fondo per le privatizzazioni, il mercato del lavoro da liberalizzare, il ritorno della Troica ad Atene. Insomma, tutto questo in cambio di 86 miliardi. Ecco che sono le condizioni durissime descritte dai giornali. Alberto D'Argenio su Repubblica riepiloga le 17 ore del negoziato con momenti di grande tensione, come quando alle 4 di notte Alexis Tsipras sbotta: questa non è un'unione, questa è un'associazione ricattatoria. Al che Juncker gli replica: Alexis, ora basta, non si possono usare questi toni in una riunione del genere, chi si comporta così fa spirare il negoziato. E alla fine di tutte queste 17 ore un alto responsabile europeo commenta: Tsipras è stato trattato come un pungiball, no? Quell'oggetto che riceve pugni da tutte le parti. Battibecchi, liti, alleanze, nella notte della trattativa Tsipras era un pungiball. Così pagina 2 e 3 di Repubblica vengono raccontate le 17 ore più lunghe della storia greca, che forse porteranno al salvataggio. C'è questo salvagente delle privatizzazioni, per l'appunto. Michelangelo Borrillo lo spiega a pagina 5 del Corriere della Sera, e cioè le infrastrutture come porti, i porti del Pireo, di Salonicco soprattutto, aeroporti, 14 regionali più il vecchio scalo di Atene, le ferrovie, le autostrade, sono tutte messe in questo fondo da 50 miliardi, un fondo indipendente che cercherà di monetizzare con la vendita tutto ciò, una sorta di ipoteca di beni dello Stato sull'ulteriore prestito che la Grecia ha ottenuto un passo prima del baratro. Insomma, siore e signori, venghino, si svende la Grecia. Se volete comprarvi il porto del Pireo, ma i cinesi hanno già messo gli occhi su questo. Oppure se volete comprarvi un aeroporto, E tra l'altro la Fraport di Francoforte è molto interessata, fa sapere ad alcuni porti, il Corriere della Sera, quindi la Germania che si compra pezzi di Grecia, e qui i complotti possono andare avanti. Oppure il fondo del Qatar è anche interessato a investire in alcuni asset greci. Insomma, c'è il rischio di una svendita, così lo vede Yanis Varoufakis, ministro delle finanze, che si è dimesso proprio per permettere che si sblocchi, che si sbloccasse il dialogo con l'Eurogruppo, visto che lui non era molto gradito, per usare un eufemismo. Varoufakis fa un'intervista a New Statesman, rivista inglese. Tutto ciò viene riprodotto dal Manifesto a pagina 2, la prima intervista di Varoufakis, che si sente in qualche modo, non usa queste parole, ma tradito da Tsipras. E qui bisognerà vedere appunto il partito di Tsipras, Syriza, se ora rimane unito. Qualcuno parla di spaccature, di crollo del governo Tsipras. Le mie peggiori paure, dice Varoufakis, si sono confermate. La situazione si è perfino peggiorata. Nell'Eurogruppo ho visto il più totale rifiuto a discutere di argomenti economici. Potevo cantare l'inno nazionale svedese e per loro era uguale. È stato allucinante. L'Eurogruppo, dice Tsipras, non risponde a nessuno. Non è codificato per legge, non ci sono verbali delle sue riunioni, agisce solo in maniera riservata. Nessun cittadino sa cosa venga detto lì dentro e spesso sono scelte di vita o di morte. L'Eurogruppo è controllato in tutto e per tutto dalla Germania. Il ministro delle finanze tedesco è il direttore d'orchestra e tutti si accordano a lui e ne seguono il ritmo. E poi Varoufakis dice: pensavo alla Grexit fin dal primo giorno, avevo fatto preparativi, sì e no, avevamo un piccolo gruppo, un gabinetto di guerra al ministero di 5 persone, ci siamo preparati sulla carta in teoria, ma una cosa è parlarne tra 5 persone, un'altra preparare un'intera nazione, serviva un ordine esecutivo per farlo che non è mai arrivato. Insomma, e qualcuno vocifera che Tsipras, mentre è tornata la zanzara qui, scusate se vi metto a parte di questa cosa, ma fare una rassegna stampa con una zanzara che cerca di morderti e non è Cruciani, non è piacevole. Comunque, Varoufakis, qualcuno vocifera, potrebbe essere il leader dell'opposizione a Tsipras adesso, se si dovesse spaccare il partito Syriza. Libero e Il Giornale mettono il conto che dovremo pagare, e Libero dice: sono 14 miliardi per l'Italia, 400 euro a testa. Per Il Giornale 400 euro a testa. Sta di fatto che il ministro dell'economia Padoan viene intervistato da Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore e racconta che il processo è tutt'altro che finito. È difficile, ancora un processo difficile. Queste sono le prime parole dell'intervista di Padoan rilasciata al Sole 24 Ore. Percorso ancora difficile e non scontato. L'Eurogruppo ha discusso di un prestito ponte di 6-7 miliardi e questa è la questione: come trovare questi soldi? È quello che stiamo studiando. Abbiamo deciso di affidare la questione a un gruppo di lavoro tecnico. C'è anche l'ipotesi di ricorrere a risorse disponibili che fanno capo all'Unione Europea e non all'Eurozona, ma dobbiamo capire la praticabilità di questo percorso. È un Padoan che dice che la posizione tedesca fosse rigida, lo sapevamo, ma mi ha sorpreso vedere quanto ampio fosse lo schieramento di paesi che condividevano quella linea. Erano quasi tutti contrari a un nuovo programma. Alla fine solo noi, i francesi e la piccola Cipro eravamo per un compromesso. Questo forse non lo si è capito bene, per cui ritengo sia stato un successo negoziale anche nostro aver portato a casa questo risultato. Insomma, Padoan dice che al Sole 24 Ore che non era la Germania dura e cattiva, ma c'era un fronte ben più ampio, praticamente tutti i paesi che erano per il non compromesso, cioè un piano come quello che è uscito, molto duro: vi diamo i soldi, ma voi prendete misure shock. Vi segnalo anche, non c'è tempo ovviamente, ma ci sono tantissimi articoli, l'analisi economica di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi in prima pagina del Corriere della Sera sui soldi e quello che è successo ad Atene coi numeri dal 2010 al 2014, quando Atene ha ricevuto dai paesi europei, dalla BCE, dal fondo più denaro di quanto dovesse pagarne di interessi. E solo quando Tsipras ha fermato le riforme il flusso netto è diventato negativo e con esso la crescita. C'è un'analisi economica interessante sul perché Alesina e Giavazzi alla fine concludono. Tsipras in fondo ha cercato di ricattare l'Europa e alla fine gli è andata male. Intanto voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno, buongiorno, bene, la zanzara? La zanzara è sempre qua, cioè, è una roba incredibile. Non, ma non puoi dargli un colpo di giornale? Lo so, solo che non è molto radiofonico, ma adesso che parli tu, se senti dei colpi, tu vai avanti, non ti preoccupare. Io vado comunque avanti, sì. Mi disinteresso dei eventuali rumori di fondo. No, volevo dirti che sì, ovviamente molta Grecia sul Sole 24 Ore, tu parlavi ora dell'intervista a Padoan, tra l'altro nell'intervista data a Fabrizio Forché dice anche che stiamo per intervenire per decreto legge sulla vicenda dei dirigenti delle entrate, sai che avevamo già parlato di questo problema e della possibilità di un emendamento in un decreto legge, sì, in corso di discussione per la conversione proprio in queste settimane, quindi un altro spunto che viene oggi. Poi naturalmente tutte le questioni greche qui, come dire, ti ricordi quando dicevano che dovevamo fare i compiti a casa? Come no? Ecco, sì, gli abbiamo dato dei compiti a casa da fare a tutti oggi, però devono possibilmente finire tutto quanto oggi, tutte le materie. Sì. E già lo segnalavi tu appunto in pagina 2 e 3, queste 48 ore con tutte le riforme da fare per poter avere soprattutto al momento un prestito ponte. Esatto. Segnalo che la parola di questa giornata e probabilmente delle prossime è prestito ponte. Bridge financing si potrebbe anche dire, se naturalmente Angelino, quel signore lì che ti chiama, poi non sì, si scoccia. No. Nel frattempo ti dico che, come ogni giorno in questi giorni, c'è anche una bussola, cioè consigli per i risparmiatori. Ci occupiamo sia dei titoli del debito, dei titoli sovrani, quindi titoli di Stato dei vari Stati, sia delle obbligazioni societarie, corporate bond, quindi consigliando le strategie che sembrano più adatte in questa fase. Poi vedremo, perché come dici tu non è che abbiamo già risolto tutto, anzi il peggio forse deve ancora venire. Altre cose invece ti volevo dire, che è pronto il decreto ASDI. Sì. Non la sapevi. No, scusa, che io ti ascolto a metà perché qua vabbè, passano zanzare. Sì. Ci sono più zanzare? No, una sempre. Ah, una sola zanzara. No, perché c'è preoccupazione a questo punto, non vengo più nel tuo studio. Dicevo, il decreto ASDI, che è l'assegno di disoccupazione nuovo e deve essere erogato agli over 55, che ha più di 55 anni di età ed è disoccupato, ma tutti i dettagli te li raccontiamo oggi su Sole 24 Ore, il decreto è in arrivo. Così come, attenzione, il Presidente della Repubblica ha firmato la legge sulla buona scuola, dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale già oggi. Questo è un dettaglio molto molto importante. Poi ti voglio anche dire, sto scorrendo ad esempio nelle pagine di Imprese e Territori, che tu trascuri, perché io lo so che sì, le trascuri, certo. Ecco, che c'è un accordo molto importante per la vendita del parmigiano negli Stati Uniti, molto importante dal punto di vista commerciale e anche di tutela del marchio. E poi ti voglio dire che è stato praticamente siglato l'accordo per i dirigenti bancari, tutto questo naturalmente sul Sole 24 Ore. I due urini ce li hai alle Cayman? Sì, come sempre. No. Come no? Alle Cayman, sì. Vabbè, in ogni caso sappi che abbiamo anche l'accordo di scambio di informazioni con le Cayman, te lo spieghiamo sulle basi di norme e tributi, quindi spostali da lì, perché guarda, che a parte che poi probabilmente ci servono per il prestito ponte di cui sopra, ma in ogni caso in questo momento non c'è più quel bel paradiso a cui tu avevi abituato i tuoi due eurini. Scusami, oggi è martedì? Sì. È martedì. C'è la pagina di condominio, parliamo di ferie per la portineria, molto importante in questo periodo, e poi ti voglio dire, questi volantini che vengono lasciati in casella, guardate che si potrebbe pure configurare il reato di molestia e disturbo alle persone. Quindi magari, ecco, il consiglio che diamo oggi sulla pagina di condominio insieme ad altre cose è: mettete una casella fuori, così almeno non vi intasano la casella della posta. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, e aspettando di vedere che succede con la Grecia, il mio abituale augurio. traffico. Alessandro Milan, la supposta effervescente dell'informazione. Insomma, una supposta effervescente. Ancora io non l'ho vista. Comunque, per chiudere il discorso della Grecia, vi segnalo anche ciò che scrive Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, in prima pagina. Racconta quando volevano comprare Berlusconi. Parte ovviamente dall'accordo Grecia-Tsipras-Europa, dicendo Tsipras per salvarsi ha dovuto vendere il suo paese. Non so se abbia fatto bene il premier Spaccone a fare ciò, ma confido ciò che mi disse Silvio Berlusconi una volta e non credo di tradire la sua fiducia. Questa prassi ha un precedente e Sallusti racconta Spreda 500, ricordate 2011, voci su casse vuote, stipendi pubblici a rischio. Berlusconi, rivela oggi per la prima volta Sallusti, venne convocato una notte in una riunione straordinaria, un vertice G8 da Merkel, Sarkozy, Zapatero e Obama. Ordine del giorno: l'Italia deve accettare un prestito del Fondo Monetario Internazionale rinunciando alla sua autonomia, mettendosi nelle mani della Troica. Vengono offerti prima 30, poi 50 miliardi, poi la Merkel rilancia 70, poi 90 miliardi, al che Berlusconi si indigna e dice l'Italia non è in vendita e se ne va. Come ormai noto, il problema Germania e Francia lo risolsero in altro modo. Questa è la versione che oggi Sallusti propone ed è un inedito di quando l'Europa cercò di comprare Berlusconi, così viene messa sul giornale. Vabbè, lasciamo la Grecia, che ritroveremo dalle 8:15 per parlare di quello che è la politica italiana. Non vi starò a tediare sulle paginate di giornali su quello che fanno i verdiniani, che non sono una nuova setta satanica ma una nuova corrente politica, quelli che seguono Denis Verdini, quello che potrebbero fare in Senato, i nuovi scenari di numeri e maggioranze che cambiano. Oggi il Corriere dedica a questo incredibilmente due pagine dei giornali. È certamente l'argomento più affrontato tra cappuccio e brioche in tutti i bar dagli italiani. Invece Repubblica si concentra su cosa? Il tempo stringe prima delle vacanze, allora... Secondo Tommaso Ciriaco, a pagina 14, Renzi ha in mente una cosa da fare entro il 5 agosto, è la riforma della RAI. Il governo accelera subito, la riforma sarà legge entro agosto. Questo almeno scrive Repubblica. La riforma blindata, l'obiettivo ambizioso è il via libera definitivo alla nuova governance della RAI in 3 settimane entro il 5 agosto. Questo è quello che si tenta di fare in aula. Per questo, tra l'altro, si girano sempre i nomi per il nuovo vertice della RAI. Secondo le nuove indiscrezioni, Renzi vorrebbe assolutamente una donna come amministratore delegato della RAI. Si pensa o a Marinella Soldi, attualmente a Discovery Italia e general manager di Discovery Network Europe, oppure al presidente dell'Enel, Maria Patrizia Grieco. Questi sono i due nomi, secondo Repubblica, che in questo momento sono maggiormente gettonati per la poltrona di amministratore delegato della RAI. Per quel che riguarda la cronaca, c'è stata la sentenza depositata per la vicenda Concordia, il naufragio costato la vita a 32 persone, oltre 175 feriti, e che ha portato in primo grado Francesco Schettino, comandante, solo imputato per l'incidente, a una condanna di 16 anni di carcere. Nelle motivazioni della sentenza deposta si legge: Schettino ha avuto un atteggiamento criminale. Secondo Repubblica, un attore, così è definito dai giudici che lo condannano, pensò solo a sé. Di quella notte si rimettono insieme le bugie. Era solo un blackout, disse Schettino. Gli errori, le leggerezze, le parole dei soccorritori. A cominciare la catena degli errori, dal primo: dobbiamo passare sotto sto cazzo di Giglio, l'avevo promesso al comandante Palombo. Così Schettino alle 18:27 del 13 gennaio 2012 dice al cartografo Simone Canessa a bordo e segna così l'inizio dell'incubo, cioè il dovere di fare l'inchino, cosiddetto la manovra di passaggio vicino all'isola del Giglio. Dobbiamo fare sto cazzo di Giglio, questo Schettino. E poi la manovra fatta a vista, senza radar, Si avvicinano al Giglio, Maschettino è a cena e chiede di rallentare perché la sua ospite, l'hostess Dominica, finisca il dolce in modo da arrivare belli cenati al passaggio dell'inchino. Insomma, da questa serie di errori poi le tragedie. Un atteggiamento criminale ha causato quei 32 morti. Questo si legge nella motivazione della sentenza di condanna. C'è molto anche sui giornali dedicato a Ivan Basso. Leggo la Gazzetta dello Sport. Ivan Basso, ciclista, lascia il Tour de France perché gli è stato diagnosticato un tumore al testicolo. La Gazzetta dello Sport titola Forza Ivan in prima pagina e racconta con l'inviato Ciro Scognamiglio il dramma. Affronto quel che mi è capitato a testa alta e petto in fuori, lotterò e vincerò. Così Ivan Basso, intercettato dalla Gazzetta dello Sport qualche frase dopo la conferenza stampa mentre sta rientrando in Italia, dice: ho sperato fino all'ultimo che fosse una cisti o qualcosa di meno serio, e invece nel giro di 2 ore è successo un casino da paura. Nel corso della quinta tappa sono caduto, mi si è schiacciato il testicolo sinistro tra la gamba e la sella. Per i ciclisti è qualcosa di comune, nei primi 2 giorni avevo fastidio, ma poi il dolore è diventato lancinante, ho fatto i controlli e ecco allora che la diagnosi non ha lasciato dubbi. Ovviamente un grande in bocca al lupo a Ivan Basso, che oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali e comprensibilmente anche sulla prima pagina, proprio l'apertura della Gazzetta dello Sport. Cito questa statistica che mi fa spavento e che tutti coloro che hanno figli sanno e conoscono dal punto di vista delle problematiche che può comportare. Ogni giorno, in una ricerca americana, i bambini americani stanno 8 ore davanti al tablet. 8 ore, ma 8 ore è pazzesco. Già quando mio figlio è da 1 ora davanti al tablet o mezz'ora, inizio a sclerare, a toglierlo, a lanciarlo dalla finestra. 8 ore! E giustamente dicono i pediatri, è come una droga. Ogni giorno 8 ore al tablet in Inghilterra, ma anche insomma in America. E questa è colpa anche di noi genitori, abbiamo poco tempo ma anche poca inventiva nel fargli fare delle cose diverse. Vabbè, ma siamo in diretta in Periscope per raccontare la carta costa, cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali. Vince oggi il giornale con Erika Orsini che racconta in un'intera pagina se anche i principi lavorano. William il duca di Cambridge vola sull'ambulanza. Ah, vedi, ho questo o in miniera, il duca di Cambridge. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Verrebbe da dire che alla fine un accordo c'è stato, in realtà alla fine di un bel niente, perché non è la fine di nulla quello che è successo in Grecia. Come dice anche oggi il ministro Padoan, intervistato dal Sole 24 Ore, ora è dura, ci sarà un percorso difficile ma per nulla concluso. Al momento la situazione greca è questa: l'Eurogruppo, l'Europa, garantisce nuovi prestiti per Atene da 87 miliardi in generale. In cambio Tsipras però promette di fare una serie di riforme che, come detto ieri, in Italia non basterebbe una legislatura intera per approvarle, e qui bisognerebbe farle in 48 ore o almeno promettere di farle in 48 ore. Sentite qui, Tsipras promette di riformare l'IVA entro domani, riformare al più presto la sostenibilità del sistema previdenziale, dunque le pensioni. E poi i creditori chiedono di rendere subito operativo il consiglio di bilancio, i cosiddetti fiscal council. E ancora la riforma del codice di procedura civile da fare. Entro il 22 luglio il Parlamento greco deve recepire una direttiva europea sulla gestione delle crisi bancarie, le liberalizzazioni, e non è finita. In tutto questo, come ipoteca, Atene mette in un fondo indipendente asset da privatizzare greci per 50 miliardi, porti, aeroporti, ferrovie. Insomma, misure shock, capestri, cappi al collo, chiamatela come volete. Atene accetta 86 miliardi, ma in cambio svende la Grecia. Qualcuno accusa Tsipras di aver fatto questo, e qualcuno dei suoi, anche dei suoi sodali del partito Siriza. Per Renzi alla fine l'accordo è la cosa migliore. Oggi è finita nel nome del buonsenso e della ragionevolezza, specie rispetto a come la partita. Sembrava anche quasi sfinito Renzi, un po' come tutti, un po' come la Merkel, un po'. Il Salvini invece ce l'ha con questa Europa solita. Tsipras ha calato le braghe, il problema è che i prossimi a dover rendere conto ai criminali di Bruxelles rischiamo di essere noi. I criminali di Bruxelles, li chiama così Salvini, ma un pochino è andato vicino anche Tsipras. Ore 4 di notte della lunga estenuante trattativa durata 17 ore, Tsipras a un certo punto sbotta, secondo Repubblica, davanti ai capi di Stato e di Governo degli altri paesi, dice: questa non è un'unione, è una associazione di ricattatori. Poi si toglie la giacca e dice: volete pure questa? E viene ripreso da Juncker, che dice: non puoi parlare così. E poi si sa, tutto il resto è storia più o meno. Saluto il professor Michele Boldrin, che insegna alla Washington University in St. Louis. Lo ringrazio perché è notte in America, ma lui è sveglio qui con noi a lottare. Buongiorno professor Boldrin. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, intanto che lei aveva detto: diamo i soldi ma voi riformate le pensioni. Altro che riformate le pensioni, gli hanno chiesto praticamente di votare anche le tasche a Tsipras. Ma non dire queste cose. No. No, ma intanto la sento malissimo, però professor. Gli hanno chiesto di fare delle cose. No, però professor Boldrin, aspetti, io sono disperato in questa lotta, non si sente nulla, cioè non lo so, io non so cosa fare, forse me ne vado in vacanza da domani, perché sono anche abbastanza scocciato. Tra l'altro avevamo ospite anche Argirio Spanagopoulos, ma non risponde al telefono, perché c'è questo invalso uso di considerare un invito radiofonico come se fosse una cosa alla quale uno può rispondere o uno no. Cose che veramente fanno abbastanza arrabbiare. Professor Boldrin, adesso si sente, professore? Eccoci. Io mi sentivo perfettamente adesso la sentiamo perfettamente anche noi, se no non l'ascoltavano i milioni di nostri ascoltatori. Allora, non hanno chiesto a Tsipras di vuotarsi anche le tasche e lasciarli tutto? Ma non mi sembra, senti, le quattro cose che devono fare entro il 15 luglio sono quelle che hai detto, ne hai aggiunto una che è per il 22, quella del codice di procedura civile, ma comunque non importa. Alla fine sono delle cose molto semplici, sono cose che si vanno chiedendo da anni, è abbastanza banale, devono approvare delle leggi si possono approvare, è un atto di buona volontà, dopo che il governo greco ha deciso di giocare pesante in maniera suicida, a mio avviso, come abbiamo già detto la settimana scorsa, con quel referendum e tutto il resto, adesso le altre parti dicono: guarda, ti diamo mica una lira, 86 miliardi. Sì, sono tanti. È una valanga di soldi sopra quelli che gli abbiamo già dato. Provate a mostrarci che avete delle intenzioni serie. Mm. Cioè, possiamo dirla così: che Tsipras ha giocato un po' a poker. Questa è l'immagine che ha dato anche Monti. Ha giocato tutto a poker, ma gli è andata male. Anche col referendum, con l'Europa. Se vogliamo usare quella metafora, usiamola. Francamente, non lo so, perché la politica è una cosa complicata. I conflitti interni a Siriza ci sono. Chiaramente, in Siriza c'è una componente che credo si autodefinisca comunista, semistalinista, impazzita, che vuole spaccare tutto, non so cosa viene in mente. Varoufakis adesso la va teorizzando che lui aveva tutto un piano marxista per destabilizzare l'Occidente e distruggerlo. C'è un'intervista semicomica a New Statesman, a folle, di Varoufakis, esattamente. Sì, i lettori italiani la possono leggere sul Manifesto, oggi viene riproposta. Suppongo che Tsipras, che non conosco, quindi valuto ad occhio, forse sia un po' più responsabile, ha giocato una carta pesante, è andata alla fine come ci si poteva aspettare. C'erano solo due soluzioni, guarda. o il suicidio totale della Grecia sulla linea Varoufakis, facciamo il comunismo mediterraneo, non si capisce con i soldi di chi, oppure prendiamo soldi da altri e proviamo finalmente a fare queste riforme, questi cambiamenti che ci trasformino lentamente in un paese normale. Lentamente. Guarda, gli hanno chiesto di approvare delle leggi. No, no, gli devono approvare delle leggi, poi lo sai benissimo anche tu, che poi i tempi di implementazione delle cose durano mesi, anni. Ma infatti quando Padoan dice che il percorso è difficile, e il mio sospetto è che tra sei mesi saremo ancora qui a parlare che facciamo della Grecia. Anche il mio. Cioè, perché non le farà queste riforme, ma non, a parte che potrebbero non essere approvate questo piano dal Parlamento greco nelle prossime 48 ore. Certo, c'è anche questo rischio. Beh, per quello gli hanno chiesto, sentite, a questo punto, dopo tutti questi mesi, dopo tutti questi anni, ragazzi, o ben lo volete fare o non lo volete fare, è inutile continuare a dire dobbiamo fare la commissione tecnica. I testi sono scritti, le cose da fare le sapete, insomma, cioè non è... E quindi capiamo, io sono anch'io perplesso. D'altra parte, cosa, l'alternativa qual è? Lasciamo stare le cretinate folli che dice Salvini, che francamente sta raggiungendo dei livelli. Perché? Cosa c'è quando dice su cosa cretinata? Sui criminali di Bruxelles? Ma lasciamo stare i criminali di Bruxelles, proprio lui, insomma. Cosa bisogna fare? Cosa deve fare la Grecia? Cosa devono fare gli altri partner europei? Continuare a dare soldi alla Grecia a gratis? Sì, però qua manteniamo vita naturale, allora, durante. C'è una questione, chiedo, di democrazia, nel senso, oggi Sallusti sul giornale racconta dobbiamo fidarci sul fatto che quello che racconta sia vero, che nel 2011 svela questo inedito, fecero la stessa cosa con Berlusconi, cioè lo chiamarono Merkel, Obama, Sarkozy, e dicendo devi prendere un prestito del Fondo Monetario da 90 miliardi, altrimenti, e Berlusconi disse l'Italia non è in vendita e se ne andò, e dice Sallusti, ecco come finì, poi lo sappiamo, insomma, i complottoni, i cambi di governo senza che si voti, questo è un problema, i cambi di governo. Alessandro, cioè, io scusami, dopo il tu, perché sono anche a casa mia, spero gli ascoltatori capiscano. I segreti che Sallusti sa, affari suoi. Io so una cosa dell'Italia del 2011. Berlusconi e compagnia, Tremonti eccetera, stavano portando il paese al disastro, facendo finta che non c'era nessun problema, la stavano travolgendo. Ovviamente gli altri partner internazionali avranno cercato di dire, ragazzi, ma vi state suicidando, e suicidando voi con 2 triliardi di debito, 2.000 miliardi, ammazzate anche noi, vi rendete conto? Berlusconi non l'ha voluto fare, dopodiché è successo quello che è successo. Nel caso greco non mi pare che nessuno abbia chiamato nessun governo, c'è un governo legittimamente eletto, c'è una democrazia rappresentativa, andranno in Parlamento, se il Parlamento greco vuole approvare, approva, se non vuole approvare, non approva e va per la sua strada. Quello che non si può pretendere è che vi siano decine di altri paesi, perché non so se vi siete resi conto, ma c'era praticamente l'unanimità dei 18 rispetto alla Grecia. Non si può pretendere che gli altri paesi, alcuni di quali hanno pagato pesantemente e si sono fatti i compiti, perché tipo il Portogallo, l'Irlanda, certo, che erano fra i più accesi a dire ai greci, guardate, no, basta, noi i compiti li abbiamo fatti, ha funzionato, fateli anche voi. Non si può pretendere, ripeto, che chi il proprio dovere a casa l'ha fatto continui a farsi del male per dare dei soldi gratis regalati a delle persone che non li vogliono non li vogliono fare, va benissimo. Allora, è vero che non c'è stato un cambiamento di governo, ovviamente, non è che nessuno impone niente, anche se si vocifera che la Merkel abbia incontrato i leader dell'opposizione a Bruxelles, ma queste sono cose che possono capitare, ma magari sono anche cose non vere. Però mettendo questa pressione, cioè dicendo vi diamo i soldi per una serie di riforme che sono impossibili, è un modo, secondo alcuni, di far cadere il governo, insomma, non cambiarlo, perché non lo si può cambiare con un colpo di Stato, però lo si può cambiare in tanti modi. Ma scusa un attimo, di nuovo, anzitutto, punto uno, non sono impossibili, sono riforme che tutti gli altri paesi europei hanno fatto, persino l'Italia in parte, certamente li hanno fatti gli irlandesi, i portoghesi, gli spagnoli, d'accordo? Altrettanto poveri o in difficoltà che i greci, quindi anzitutto non sono impossibili. In secondo luogo, ripeto, se tu vieni da me o io vengo da te a richiederti soldi per la decima volta, che non ti restituisco mai, ti chiedo delle cose tu in cambio. Tu cosa fai? No, chiaro, ti chiedo delle cose in cambio. Tutto questo populismo assurdo. Chi è dell'opinione che l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea sia una banda di criminali come Salvini? Suggerisca ai greci di fare da soli. Se i greci vogliono andare da soli, io credo che gli altri tristemente diranno: guardate, vi fate del male, sì. Poi alla fine li si lascia andare. Era chiarissimo in questi giorni che ormai gli altri paesi erano un millimetro dal dire vabbè, rinunciamo. No, ma è chiaro, attenzione, perché parli come Varoufakis, che ha detto che ci vuole adesso un controllo della Grexit, cioè questa è la linea di Varoufakis adesso, in quell'intervista a New Statesman. Ha detto che adesso bisogna controllare, l'unica strada è gestire bene il Grexit a questo punto, cosa che lui, alla quale stava pensando giorno e notte, il Grexit, l'uscita. Sì, Varoufakis, guarda, lascia stare, non fammi parlare di Varoufakis. No, vabbè. Vabbè, sentiamo allora Monti. Ieri Monti è intervenuto sulla 7 da In Onda, da Paragone e Francesca Barra, a parlare. A un certo punto si è un po' accapigliato, perché Paragone è uno che l'Europa non la gradisce moltissimo. Voi parlate tanto di debiti da onorare, anche miei, e poi questo è il paese che non pagava gli imprenditori. E chi ha cominciato a ridurli? Professor Monti, la prego, almeno su questo i dati dicono ben altro. Io sono venuto qui per cercare di capire insieme la Grecia, non per difendere l'attività del mio governo. Le dinamiche sono le stesse. No, le dinamiche sono le stesse, ma se lei dice delle cose così palesemente infondate, come il fatto che è come se noi avessimo avuto la troica, perché, e mi onora molto, la troica sono io, secondo lei, perché sono andato a diversi convegni dove continuo ad andare e dove ho visto esponenti politici italiani di tutti i partiti. Lei forse non è ancora stato invitato o ha declinato l'invito. Ce l'ha col Bilderberg, secondo me, perché Paragone è uno di quelli che dice che il Bilderberg succedono delle cose. Ma Paragone, ma lasciamo stare, ci andavo anche la sua trasmissione, è una cosa indecente. Ma no. Voi fate una trasmissione seria, vogliamo perdere tempo su queste cose comiche? Ma no, volevo far sentire Monti che si è risentito, perché ovviamente insomma tirato non in ballo. Monti non fa parte del mio club di amici. Vabbè, la questione è però se la Grecia non fa queste cose, Boldrin, che succede? Cioè, perché, ripeto, per esempio, se viene bocciato il piano dal governo, dal Parlamento cadrà il governo, e questa sarà la questione politica interna. Ma se non riescono a fare queste riforme, noi intanto gli 86 miliardi li diamo, che succede tecnicamente? No. No, se non c'è tutta totale condizionalità. Ho capito. Uno dice mi impegno a farle. Ci sono delle date, se non le fanno non le ricevono. Beh, però non le fanno, i primi soldi gli vanno dati subito, 7-8 miliardi di prestito ponte gli vanno dati subito, se no sono disperati. Guarda, io credo che l'Unione Europea l'ha fatto Draghi con questa liquidità straordinaria, che a cui ha messo un tetto, 89 miliardi se non mi ricordo male. Sì, 89. Ah, certo, cioè, sì, 89, no? Il meccanismo umanitario di aiutare il disperato credo che rimarrà in piedi. Dopodiché è chiaro che se il Parlamento greco, l'elettorato greco, se dovessero andare a nuove elezioni, deciderà altrimenti, gli altri paesi europei dovranno fare due conti e dire vabbè, l'accordo è saltato, loro vogliono fare delle altre cose, loro non mantengono gli impegni, noi non manteniamo i nostri, ognuno va per la sua strada. Quindi la Grexit. La cosa che stiamo apprendendo da questo è che siccome ci sono senza dubbio degli errori fatti nel disegno dell'euro e si stanno aggiustando in corso d'opera, uno degli aggiustamenti richiesti che dovremmo accettare è che è possibile che un paese se ne vada non solo dall'euro ma forse dalle varie regole dell'Unione Europea eccetera eccetera, se non vuole accettare le regole e cooperare con i propri partner. È possibile un'uscita. È una cosa tragica, è una cosa brutta, una sconfitta di certi progetti, però è un fatto che credo occorra cominciare ad accettare. Anche perché è possibile che succeda, perché è concretamente possibile proprio. Io non voglio pensare, non voglio credere che la Grecia riesca a fare una previsione, visto che avevo fatto la settimana scorsa infatti, quella sulle pensioni. Infatti, facciamola. Io credo che non sia impossibile che ci ritroviamo presto con una differente maggioranza nel Parlamento greco, che fondamentalmente approvi quelle misure, fatta di un pezzo di Syriza con Tsipras, e con parte dei partiti che oggi sono all'opposizione, che avevano appoggiato il sì al referendum. Sì. E credo poi che sia possibile, forse auspicabile, che le due ali estreme di questa maggioranza di Tsipras, cioè quella fascio nazista di Alba Dorata e quella comunista stalinista con cui Varoufakis sembra volersi identificare, decidono di passare all'opposizione perché vogliono fare non si capisce cosa, il nazionalsocialismo, suppongo, in Grecia, e che la parte meno irresponsabile di quel Parlamento provi a aggiustare quel paese in cooperazione con la comunità. Vediamo, per non trovarci a dicembre con nuovi vertici tra sei mesi su che fare della Grecia, deve uscire o non uscire dall'euro, perché questa anche... Qui bisogna anche accettare che in una situazione di questa grande difficoltà, in cui stai cercando di far cooperare dei paesi così eterogenei, io non sono uno bravo con la politica, però guardandola da fuori la capisco, a quel livello è ragionevole che ci siano il su e giù, gli scontri, le trattative, i cambiamenti di opinione. Alla fine Tsipras risponde al suo elettorato, ma Renzi risponde al suo, Merkel al suo, sì, Hollande al suo, Rajoy al suo, ogni paese ha un elettorato che cerca di guardare il capito. Staremo a vedere, intanto, no, ma è chiaro, Michele Boldrini, intanto occhio, perché Varoufakis dicono che venga a insegnare in qualche università americana in cui prenderà dei bei soldoni, questo potrebbe essere la via d'uscita di Varoufakis. Faceva il visiting non pagato in un posto in Texas dal suo amico Galbraith, lasciamo stare. Però dicono così, cioè che siano pronte, ma è vero, ci sarà qualche università americana pronta a accaparrarsi, no? Krugman avrà bisogno di un research assistant per scrivere cazzate. Infatti c'è la fantasia appropriata per fare il research assistant di Krugman. Stiglitz, vediamo chi lo paga di più, dai. Forse chi? Stiglitz, non ho capito. Krugman o Stiglitz, va bene. Uno dei due lo assumerà il Varoufakis come consulente della palestra. Infatti sia Stiglitz che Krugman avrebbero bisogno di un po' di palestra, quindi magari Varoufakis sì, può risultare utile. Va bene, ringrazio il professor Michele Boldrini, economista che insegna alla Washington University in St. Louis, per essere stato con noi anche nella notte americana. Sono 1:36, vado a dormire, e poi noi dopo la pubblicità insieme agli ascoltatori Sergio e Marco sono qui, dopo vi do la parola. Ovviamente avremo il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, uno dei delusi di Tsipras, ha detto ha tradito la democrazia del referendum. Luigi Di Maio era uno tra tanti politici italiani in Piazza Sintagma a festeggiare questo bagno di democrazia del referendum, e adesso a dire Tsipras ha venduto tutto ciò. Tra poco. Allora, Sergio da Vicenza ci ha chiamato. Sergio, buongiorno. Buongiorno, pronto, buongiorno. Che pensa lei? Che pensa? Penso a Tsipras, sì, che secondo me, sì, facendo un po' di fantapolitica, ma neanche tanto, è stato un gran furbone. In che senso? A indire un referendum 10 giorni fa, sì, su un tema che pochissimi avevano capito. Io lo dico da giorni. E lei l'ha detto più di una volta. Esatto. Che cosa è successo? Che il punto non è se gliel'hanno bocciato o no quel referendum, è che ha fatto un referendum. Se non lo avesse fatto, sarebbe stato costretto a farlo adesso, con un piano preciso. E se il popolo lo bocciava, boccia il piano preciso, è un guaio di Notte. Lei dice ha fatto il furbone, nel senso che prima l'ha fatto bocciare, ma tanto sapeva che lui avrebbe già l'avrebbe già accettato, togliendo di mezzo Varoufakis. Beh, non è male come lettura, Sergio, sai che non ci ho pensato, ma secondo me lei non va neanche lontano dalla realtà politica. Marco dalla provincia di Caserta, buongiorno. Senta, io volevo esprimere la mia idea. Secondo me noi ci troviamo di fronte a due soggetti, la Grecia e l'Europa, che sono uno peggio dell'altro. Perché praticamente l'Europa darà i soldi alla Grecia, ma quanti di questi soldi arriveranno effettivamente al popolo, io mi chiedo. Secondo me questi soldi serviranno solamente per pagare i debiti. Le banche. Ma adesso ristruttureranno il debito, forse, fa parte dell'accordo, cioè una volta se fanno le riforme. La Grecia è uno di quei pochi paesi che forse dà ancora dei privilegi ai cittadini. Questi privilegi verranno tolti. Praticamente si andrà a pensione a 90 anni. È vero? No, a 90 anni. È un po' a 67. Sempre... 67. Come nei tutti i paesi normali. Vedrà che aumenteranno anche lì l'età pensionabile. Perché fra un paio d'anni... A 67. Saranno finiti questi soldi, dovranno chiedere altri sacrifici alla Grecia, oppure la Grecia dovrà uscire. Purtroppo questa... Guardi, non lo so, se fanno le riforme in realtà no. Comunque Marco, io queste considerazioni le voglio girare per iniziare la chiacchierata con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che saluto, ben ritrovato Di Maio, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, buongiorno. È un furbacchione, come dice l'ascoltatore, è stato un furbacchione anche per lei, Tsipras, che lei che ne ha preso le distanze, lei era in piazza Sintagma a festeggiare questo bagno di democrazia e poi dice adesso l'ha tradita questa democrazia, Tsipras. Sicuramente, e non credo che la visione sia così complottista come diceva il cittadino intervenuto prima, semplicemente lì ci sono due visioni probabilmente nel governo e nella maggioranza del governo Tsipras. Una era quella di Varoufakis, che era di cercare di stringere l'accordo più conveniente possibile per i greci, e invece io quella che ho visto di Tsipras ieri è stata una resa totale, incondizionata. Ma al di là di questo, a me quello che preoccupa è che queste sono misure che saranno imposte ai cittadini greci, dello stesso tenore delle misure che fino ad ora sono state adottate in Grecia e hanno fatto perdere il 25% del PIL. Io penso che noi cittadini italiani dovremmo consigliare ai cittadini greci, per esempio, di stare attenti ad una legge che aumenta l'età pensionabile come la Fornero, visto che adesso in Grecia nasceranno gli esodati, sicuramente. Però la porteranno a 67 anni, è una cosa... Come in Grecia, lo vado a dire all'operaio e dire che in Italia a 67 anni sta ancora sulle impalcature a 40 gradi di questi giorni, se è una cosa buona o no. E allo stesso modo la cosa che più mi inquieta è questo fondo di garanzia. Sì. Non so se si è capito bene, ma noi sappiamo che nel diritto internazionale uno Stato è sovrano perché i suoi beni non sono pignorabili. Per intenderci, in Italia, per venirsi a prendere il Colosseo o Finmeccanica, o glielo dobbiamo vendere noi ad un altro paese o devono venire con i carri armati. Invece qui devono mettere 50 miliardi a garanzia, non so, porti, aeroporti, asset. È un paese di 11 milioni di cittadini, 50 miliardi di beni, stiamo parlando anche delle società che gestiscono il Partenone, stiamo parlando dei porti. Cioè lei dice che cosa? Che l'Europa ha strozzato la Grecia? Guardi, hanno inventato l'Equitalia europea per la prima volta nella storia, per questo ce l'ho con Tsipras, hanno trovato il modo per espropriare un paese dei propri beni. Io poi ho studiato un po' il meccanismo di questo fondo di garanzia, cioè metteranno in questo fondo 50 miliardi di beni, quindi porti, aeroporti. Sì. Di questi 50 miliardi, 25 miliardi dovranno andare alle banche, 12 miliardi dovranno andare nella riduzione del debito, quindi alle banche europee, e solo 12 miliardi poi dovranno servire per interventi sulle imprese, che sono quasi tutte delle banche, perché sono fallite quasi tutte in Grecia. La cosa che a me spaventa è questa qui, cioè si è messa in discussione la sovranità di un popolo, è come se mettessimo a garanzia il Colosseo in Italia, e questo mi spaventa. Ma quindi perché dice, perché secondo lei Tsipras l'ha fatto? Cioè che avrebbe che lei sia rimasto deluso da Tsipras, questo è abbastanza guardi, chiaro. Che doveva fare? La delusione di Tsipras e Varoufakis all'inizio avevano parlato a quei tavoli europei di un altro piano, che era quello della legge anticorruzione. La Grecia è il paese più corrotto d'Europa, di una legge in Italia. L'assenza di una seria lotta alla corruzione ha assorbito 17 punti di PIL dal 2002 al 2014. Qui la domanda che ci dobbiamo fare è: vogliamo continuare ad aumentare le tasse alla Grecia per consentirle di ridarci i soldi? Guarda, non è che aumentare le tasse, però l'IVA era, non so, c'era l'esenzione dell'IVA per il turismo, l'esenzione per le isole, allora, le portano a una situazione di normalità come in tutto il mondo. Non è una situazione di normalità, perché voi, nel senso in generale, si tende a pensare che l'IVA applicata in Germania o l'IVA applicata in Spagna è la stessa che si deve applicare in Grecia, ma la Grecia ha un arcipelago di isole, alcune delle quali sono in Turchia, devono avere un regime agevolato perché i trasporti interni sono particolarmente... Infatti rimarrà, per le isole minori rimarrà, però non so, la riforma del codice civile è una cosa buona? La riforma del codice civile è una cosa buona se è una riforma del codice civile che va incontro alle imprese, se è una riforma del codice civile che favorisce gli espropri di quei poveri, per esempio commercianti che non riescono a pagare le tasse, e gli consente più velocemente di non riuscire ad opporsi agli espropri, a me no. Quindi dovremo vedere che cosa c'è scritto. Io l'unico appello che posso fare in questo momento, perché l'ultima parola ce l'ha ancora il Parlamento greco, perché per ora Tsipras sta sottoscritto di respingere il piano, un foglio. di bloccare questo piano, mandare a casa Tsipras e almeno far decidere i cittadini greci per le prossime elezioni. Perché ho capito, ma così però non arrivano i soldi e tra 10 giorni devono pagare 7 miliardi. Cioè, allora la Grecia esce dall'euro. A me risulta che comunque i soldi non arrivino, perché l'accordo di ieri non è un accordo. Nell'accordo c'è scritto chiaramente che si dà un ultimatum alla Grecia, sì, per aumentare l'IVA, per allungare le pensioni, per mettere praticamente in garanzia tutti i beni, e con quei beni ricapitalizzeranno, sì, le però banche. c'è un prestito ponte, entro il 20 luglio la Grecia deve dare 7 miliardi di euro. Il prestito ponte è condizionato ai 25 miliardi di beni pubblici per ricapitalizzare le banche. No, ma è chiaro, ma io seguendo con i beni pubblici, sì, allora a quel punto lo fanno loro direttamente senza dover ascoltare. No, ma certo, però Di Maio, europei, seguendo il suo discorso, vuol dire bocciare questo piano, vuol dire che la Grecia esce dall'euro. Questa è... Quello allora io mi faccio questa domanda. Se le misure che hanno appena imposto alla Grecia serviranno a finire di strozzare la Grecia, così come sarà, poi magari ci risentiamo tra 6-7 mesi e sì, capiremo in che condizioni è la Grecia, sì, a questo punto l'Europa non serve più. Io faccio presente che negli stessi giorni in cui, perché noi sappiamo che entro il 30 giugno la Grecia doveva restituire all'FMI 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale, negli stessi giorni tra Germania e Grecia e Austria si ristrutturava il debito con un taglio di 1,5 miliardi di euro, uno sconto, è vero, all'Austria. È vero. Alla Grecia si è detto no, all'Austria si è detto sì. Questo, allora, è vero, questo è vero, ieri il Sole lo raccontava, ma è vero. È un'Europa che fa due pesi e due misure, probabilmente perché l'interesse in questo momento della Banca Centrale Europea e anche un po' della Germania non è quello di salvare la Grecia, è di mungerla fino all'ultima goccia, e questo non è ammissibile. Allora, per concludere, lei avesse di fronte Tsipras, immagino che l'avrebbe abbracciato la domenica del referendum, adesso che gli direbbe? Ma se fai un referendum, io gli vorrei dire solo questo: se fai un referendum e i cittadini hanno più coraggio di te, abbi il coraggio almeno di portare avanti il risultato di quel referendum. Quel referendum si era espresso comunque su dei capisaldi, tutti dicevano ha fatto il referendum su una cosa che già non c'è più, un accordo che già non c'è più. Guarda caso, i termini di quell'accordo che non c'era più sono tornati nell'accordo di ieri. Anche più duri, quindi, forse. Anche più duri. I cittadini hanno detto no a quei termini dell'accordo, quindi lui doveva andare a quei tavoli e proporre quello che all'inizio lui e Varoufakis avevano portato ai tavoli: aumento della tassazione del gioco d'azzardo, ristrutturazione sicuramente della pubblica amministrazione, legge anticorruzione, legge antievasione. Troviamo i miliardi e così non strozziamo le imprese con ulteriori tasse o non aumentiamo la disoccupazione, perché ricordiamoci, l'aumento dell'età pensionabile aumenta la disoccupazione perché non consente ai giovani di entrare al mondo del lavoro. Allora, intanto stiamo a vedere le prossime 48 ore che succederà nel Parlamento greco. La ringrazio, Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. È il momento del traffico. Siamo qui alle 8:53 minuti. Niente, c'è una zanzara che mi perseguita, giuro, dall'inizio della trasmissione c'è quella zanzara nello studio e non è Giuseppe Cruciani. Che dobbiamo fare? Adesso quando la prendo, giuro, è ancora viva, lo dico a tutti gli animalisti fanatici, è ancora viva, ma spero non per molto se mi si riavvicina. Comunque, voi non fate conto. Andrea da Roma, buongiorno Andrea. Ah, buongiorno. Senta, io lavoro con la Grecia da tanti anni. Sì. Il mio importatore, sono una coppia, lui è greco e lei è italiana. Io non sono comunista, lo metto subito, lo dico subito, perché sennò sembra che lo dici. Non lo deve premettere. No, lo premetto perché, ecco, le volevo dire questo. Io ho sentito pure i punti di vista, chiaramente la mia interlocutrice, essendo romana, conosce molto bene i difetti dei greci. Sì. Però bisogna che pure l'Europa, e specialmente i tedeschi, si facciano un esame di coscienza, visto che gli hanno rifilato un sacco di armamenti che magari non gli sarebbero serviti attraverso la corruzione. Sì. Quindi i politici si dice sempre la Germania, ma oggi Padoan sul Sole dice che a parte Cipro, Italia e Francia, tutti i paesi erano sulla linea della Germania, però si identifica sempre la Germania. Comunque prego, dicano. La Germania perché è quella che gli ha venduto più roba, perché sì, da quello che mi dice la mia interlocutrice gli ha venduto sottomarini. Quindi la Germania che dovrebbe fare? Lei dovrebbe dire, si dovrebbe fare un esame di coscienza. Beh, diciamo sì, se non altro le loro grandi aziende, le loro multinazionali si dovrebbero fare un esame di coscienza, visto che sono tra i maggiori corruttori che gli hanno fatto comprare questa roba. Per carità, i politici greci sono fatti corrompere, quindi hanno però, sbagliato però loro. Lei dice anche i tedeschi hanno le loro responsabilità. Questi prodotti che hanno comprato sono stati finanziati dalle banche tedesche, le quali sono state ripagate con i soldi del Fondo Monetario Internazionale. È stato chiarissimo Andrea. E allora, mentre la zanzara continua, è una persecuzione, meno male che tra un minuto ho finito la segreteria telefonica. Ma voi vi ricordate quando la Merkel disse che il professore Monti, presidente del consiglio tecnico, disse mi piacerebbe averlo come genero? E voi sapete che Renzi potrebbe diventare anche lui un ipotetico parente della Merkel, perché quella là ama i presidenti del consiglio italiano. Amici, gli italiani sono belli in busto. Quando prima erano tutti uniti, l'unità era chiusa, non c'era. Ora che sono tutti divisi fra di loro, sono fuori giornale l'unità. Ma dov'è l'unità? Ma questi danno di matto. Io, Alessandro Milan, io sei bravo però, sei proprio bravo. 5 minuti va bene, poi rompi i coglioni però, E va bene così. È la nostra segreteria telefonica 02, finiscila, 02 4652 4492. È la segreteria telefonica. Saluto Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Carmelo Lauricelli in regia. La zanzara è ancora viva, purtroppo, qui gira. E va bene, noi ci troviamo domattina alle 6.30. 24 mattino.